e scherzo de follia si fatta profezia, e scherzo de follia si fatta profezia, ma come fa da ridere la loro credulità, ma come fa da ridere, da ridere la loro credulità. Come fa a ridere la loro credulità.